Seconda parte. Allora, veniamo al momento in cui, delineando questa prospettiva, diciamo, del passaggio che in certi momenti lui chiama dalla sovranità alla biopolitica, eccetera, ci sono due pezzi, uno quello che ha scoperto Marta nell'ultima lezione del corso del 76, bisogna difendere la società, e l'altro invece all'inizio del corso del 78. E li leggiamo uno dietro l'altro e più o meno vediamo di capire che cosa possiamo tirarne fuori. Allora, nel corso del 76, vi ripeto, la questione della biopolitica e del potere emerge soltanto nell'ultima lezione, quando lui mette insieme le cose che ha detto sulla questione della guerra, eccetera, eccetera, e dice: mi sembra che uno dei fenomeni fondamentali del XIX secolo sia stato ciò che si potrebbe chiamare la presa in carico della vita da parte del potere. Si tratta, per così dire, di una presa di potere sull'uomo in quanto essere vivente, di una sorta di statalizzazione del biologico, o almeno di una tendenza che condurrà verso ciò che si potrebbe chiamare la statalizzazione del biologico. Rifà un po' le cose della sovranità, parla delle altre trasformazioni del diritto politico, riprende questa formula del lasciar vivere e lasciar morire, eccetera, eccetera, parla di quello che vi ho detto prima, cioè della nascita della medicina moderna, come... Allora, vediamo dov'è. Pagina 211. L'ultimo ambito di intervento è quello che prende in considerazione le relazioni tra la specie umana, gli esseri umani in quanto tale, in quanto esseri viventi, e il loro ambiente di esistenza. Allora, cominciamo a notare che in questo, come nel corso successivo, esce fuori un concetto relativamente nuovo per Foucault, che non aveva mai usato prima, che è quello di ambiente. Ambiente. Verranno allora presi in esame gli effetti elementari dell'ambiente geografico, climatico, idrografico e i problemi ad esso connessi. Quelli delle paludi, per esempio, o per tutta la prima metà del XIX secolo, quelli delle epidemie legati all'esistenza delle paludi. Verrà inoltre suscitato il problema dello stesso ambiente, attenzione, ma non in quanto ambiente naturale, bensì come ambiente che ha in qualche modo degli effetti di ritorno sulla popolazione, come ambiente che è stato da essa creato. Quindi cominciamo a prendere nota del fatto che c'è un ambiente come insieme di elementi naturali nei quali si svolge la vita dell'uomo, cioè ambiente non dipendente da lui, indipendente da lui in cui lui si trova ad operare, e un ambiente invece che viene creato dagli uomini in quanto popolazione, cioè in quanto aggregati di esseri umani che fanno riferimento, adesso vediamo poi come altro europeo. E è interessante anche il commento che fa lui stesso su questa cosa, che è, allora, dice, effetti di ritorno sulla popolazione come ambiente che è stato da essa creato. Si tratta per l'essenziale di quello che diventerà il problema della città. Quindi la città è l'esempio più tipico di un ambiente artificiale, no? Creato dall'uomo, in cui l'uomo. Mi limito qui a segnalarvi solo alcuni dei punti a partire dai quali si è costituita la biopolitica e indicarvi solo alcune delle sue pratiche, dei suoi principi, bla bla bla, va bene, che sono e dei suoi ambiti di intervento, di sapere e di potere, sempre la prospettiva del sapere interessante del potere. Io credo che in tutto ciò vi sia un certo numero di cose abbastanza rilevanti. La prima è questa: l'apparizione di un elemento, stavo per dire di un personaggio nuovo, che né la teoria del diritto né la pratica disciplinare conoscono. La teoria dell'individuo, la teoria del diritto in fondo, non conosceva altro che l'individuo e la società. L'individuo contraente e il corpo sociale costituito attraverso il contratto volontario implicito degli individui. Da parte loro le discipline avevano a che fare in pratica soltanto con l'individuo e con il suo corpo, addestrare una singola persona, tutti nello stesso modo ma singolarmente. In questa nuova tecnologia di potere invece non si ha propriamente a che fare con la società o comunque con il corpo sociale definito dai giuristi e neppure con l'individuo corpo. Ciò che appare è un nuovo corpo, un corpo molteplice, un corpo con una quantità, seppure non infinita, comunque innumerevole di teste. Si tratta della nozione di popolazione. La biopolitica ha a che fare con la popolazione. Allora, attenzione, capite che qua Foucault per popolazione non intende la società. La società è già un aggregato, è già qualche cosa, la società è già un corpo sociale in quanto tale, formato da individui, certo, ma lo si può leggere come un tutto unitario. Una popolazione invece non si può leggere come un tutto unitario. Gli effetti sulla popolazione, quando si tratta di effetti statistici, misurare quante persone muoiono in una certa classe di età in un certo periodo di tempo, misurare che relazione c'è tra l'insorgere di certe malattie e la morte, misurare la relazione che c'è tra certe condizioni ambientali e lo stato di salute, sono tutte, ogni volta che è in ballo un discorso statistico, io non parlo della società in quanto tale, parlo di effetti che si esplicano su singoli corpi, su singoli individui, ma che io misuro in maniera ampia, collettiva. Quindi popolazione è un termine che è in qualche maniera intermedio tra quello di individuo e quello di società, capite questo? Non è propriamente la società che è un tutto unico, né l'individuo che è solo. E lui dice è un corpo molteplice, è un corpo molteplice, è un corpo con una quantità. Il secondo problema da mettere in rilievo dopo la comparsa dell'elemento costituito dalla popolazione è quello della natura dei fenomeni presi in considerazione. Come vedete, si tratta sempre di fenomeni collettivi, di fenomeni che appaiono con i loro effetti economici e politici e che diventano pertinenti solo a livello della massa. Considerati di per sé, individualmente, sono fenomeni aleatori e imprevedibili. Non posso dire il singolo individuo, se morirà o no, se si ammalerà o no. Posso dirlo statisticamente, adesso, il tot per cento di queste persone si ammalerà entro un tot. Ma considerati invece a livello collettivo, presentano delle costanti che è facile o comunque possibile stabilire. Infine, questi fenomeni si verificano essenzialmente nella durata, devono cioè essere considerati all'interno di un certo limite di tempo più o meno ampio. Sono insomma fenomeni di serie. È dunque possibile dire, per sommi capi, che la biopolitica si rivolgerà a quegli avvenimenti aleatori che si producono all'interno di una determinata popolazione considerata nella sua durata. Effetti aleatori e prevedibili individualmente, effetto collettivo, durata, tutto questo nella popolazione. A partire da ciò, la terza cosa che mi sembra importante rilevare è che questa tecnologia di potere, la biopolitica, giungerà ad instaurare dei meccanismi che avranno un certo numero di funzioni molto diverse da quelle che erano le funzioni dei meccanismi disciplinari. Nei meccanismi instaurati dalla biopolitica, infatti, si tratterà certo in primo luogo di previsioni, di stime statistiche, di misure globali, ma si tratterà anche di modificare non tanto un determinato fenomeno in particolare o un determinato individuo in quanto individuo, quanto di intervenire essenzialmente a livello delle determinazioni dei fenomeni generali, ovvero dei fenomeni considerati nella loro globalità. Sarà pertanto necessario modificare o ridurre gli stati morbosi, prolungare la vita, stimolare la natalità, ma soprattutto bisognerà approntare dei meccanismi regolatori, regolare, che all'interno di una popolazione globale, con i fenomeni aleatori che l'accompagnano, siano in grado di determinare un equilibrio, conservare una media, stabilire una sorta di omeostasi, eccolo qua, assicurare delle compensazioni. In breve si dovranno installare dei meccanismi di sicurezza attorno a quanto di aleatorio vi è in ogni popolazione di esseri viventi. Si tratterà, insomma, di ottimizzare uno stato di vita. Questi meccanismi, come quelli disciplinari, sono insomma destinati a massimizzare le forze e ad estrarle, ma passando attraverso percorsi del tutto diversi. Infatti, a differenza di quanto avviene nelle discipline, non abbiamo qui a che fare con un addestramento individuale operato tramite un lavoro effettuato sul corpo in quanto tale. Se io cerco di fare una campagna anti-epidemica per convincere la gente a vaccinarsi contro la difterite o contro il tetano, certo che poi singolarmente sarà il singolo che verrà vaccinato, ma non sarà sul singolo che io agisco, è sulla mentalità generale della popolazione. Faccio una campagna che deve toccare, che deve introdurre un modo di pensare diverso in una collettività. Non si tratta assolutamente, insomma, di investire un corpo individuale, come accade nella disciplina. Non si tratta di conseguenza di prendere l'individuo a livello del dettaglio. Si tratta, al contrario, di agire per mezzo di meccanismi globali, in modo da ottenere degli stati complessivi di riequilibrio, di regolarità. In sostanza, il problema diventa quello di prendere in gestione la vita, i processi biologici dell'uomo specie, e di assicurare su di essi non tanto una disciplina, quanto piuttosto una regolazione. Questo è il come far la società. In Sécurité, Territoire, Population, di 2 anni dopo invece, Foucault dice così. Diciamo allora, per riassumere, che la sovranità capitalizza un territorio. Nella sovranità abbiamo a che fare con un territorio. La popolazione non è ancora emersa, non è presente quando si fa il discorso della sovranità. E pone come problema decisivo la sede del governo. Dove sta il governo di questo territorio? Dove ha sede il sovrano? Qua. Da qua egli esercita il suo potere e la sua preoccupazione principale è mantenere integro quel territorio. Al limite gli interessa poco di quello che succede della popolazione che ci sta dentro. Sì, meglio se c'è, ma insomma non è così importante. Nell'idea di sovranità. Allora, la sovranità capitalizza un territorio. La disciplina cosa fa? La disciplina dà forma architettonica a uno spazio e pone come problema essenziale una distribuzione gerarchica e funzionale degli elementi. Questo è lo dà, per fare della disciplina bisogna avere a disposizione uno spazio chiuso, antropizzato e umanizzato. Una stanza con delle sedie in cui far sedere gli studenti e tenerli lì per 5 ore. Una chiesa in cui far pregare le persone, gli inginocchiatoi, e tenerli in ginocchio quando, e farli alzare e sedere a seconda di quello che fa il prete nella messa, no? È un'architettura, se non ho una disciplina senza un'architettura non si riesce ad esplicare. Quindi la disciplina dà forma architettonica a uno spazio e pone come valore essenziale una disciplina gerarchica e funzionale degli elementi. Non basta più per la disciplina che ci sia il sovrano e il suddito. Tra il sovrano e il suddito ci sono le figure intermedie, c'è il maestro, il direttore della scuola, l'impiegato comunale, il prete, il carceriere, il medico, l'infermiere, giusto? Sono delle gerarchie, è molto più articolata. una dimensione disciplinare da una dimensione puramente sovrana, no? La sovranità è solo sovrano subito. Nella scuola è una forma architettonica e una gerarchia di personaggi e di funzioni. La sicurezza invece cerca di strutturare un ambiente in funzione di una serie di eventi o elementi possibili che occorre regolare in un quadro polivalente e trasformabile. La sicurezza cerca di strutturare un ambiente, è ambiente. Allora, mentre la sovranità ha a che fare con un territorio, la disciplina ha a che fare con un'architettura, la sicurezza o il controllo hanno a che fare con un ambiente. Strutturato in funzione di che cosa? Di una serie di eventi o di elementi possibili. La sicurezza lavora sugli eventi, fa succedere qualcosa. Certo, anche la disciplina fa succedere qualcosa, ma soltanto come risultato finale di una lunga serie di addestramenti. Io ti addestro a stare fermo e ad ascoltare, dopo un po' sono trasformato in una macchinetta, in un robot, eccetera. Ma non c'è nessun evento, no? Nessuna. I meccanismi di sicurezza e di controllo invece generano gli eventi. C'è una epidemia, una endemia, io ti sottraggo a questa endemia. Assicuro il tuo corpo contro la scarlattina, contro la, diciamo, contro la difterite. Ti convinco a farti visitare regolarmente in funzione di una certa patologia. Cioè sono degli eventi che accadono in continuazione, strutturati, collegati tra loro. La dimensione della sicurezza rinvia perciò a eventi possibili, a ciò che è temporaneo e aleatorio e che bisogna riscrivere in uno spazio dato. Lo spazio in cui si svolgono serie di eventi aleatori corrisponde, credo, a ciò che viene definito ambiente. La nozione di ambiente fa la sua comparsa in biologia, come ben sapete, con Lamarck, che è il rappresentante di un pensiero evoluzionista anteriore a quello di Darwin, è basato sull'erronea convinzione che l'uso modifichi l'organo, cosa che ci ha spiegato Darwin, che non è fatto vera, che non è soltanto un'orientazione casuale, però è la prima volta che con la marca esce dato l'ambiente. Ora, che, però in fisica invece esiste già, dice il termine ambiente, impiegato da Newton e dai suoi seguaci. Che cos'è l'ambiente in fisica? È ciò che serve a spiegare l'azione a distanza di un corpo su un altro, è il supporto e l'elemento di circolazione di una azione. L'ambiente è lo spazio in cui il Sole esercita la sua attrazione gravitazionale sulla Terra. Questo è l'ambiente in fisica. Nella nozione di ambiente il problema fondamentale riguarda la circolazione e la causalità. I corpi possono circolare nell'ambiente e esercitano il flusso su altri corpi facendo in modo che a certe cause corrispondano certi effetti. Forza di gravità. La forza di gravità causa il moto circolare, il moto ellittico della Terra. Nella nozione di ambiente il problema fondamentale riguarda la circolazione e la causalità. Ebbene, gli architetti dei primi paesi del secolo hanno, non dico spiegato la nozione di ambiente, visto che a quanto mi risulta essi non ricorrono mai, e questa nozione non ricorre mai per designare le città e gli spazi urbanizzati, ma quando si tratta di pensare e di modificare lo spazio urbano, essi si avvalgono, se non della nozione di ambiente, sicuramente dello schema tecnico, della struttura pragmatica che la riflette. Quindi dice, la nozione di ambiente, secondo lui, viene usata anche se senza dirlo, anche se in maniera automatica, spontanea, diretta dagli urbanisti e dagli architetti delle città. Era già uscita la città qua, vedete che esce la nota. I dispositivi di sicurezza elaborano, fabbricano, organizzano, pianificano un ambiente ancora prima che la nozione sia formata e definita. L'ambiente sarà esattamente ciò in cui avviene la circolazione. Attenzione! Era esattamente la stessa cosa che presupponevano i fisiocrati di quello della circolazione, quando dicevano: lasciate circolare le merci, se c'è la carestia lasciate che le merci, che il grano dall'estero venga venduto in patria. Se non c'è uno spazio di circolazione delle merci, dice Foucault, più in generale, non sono solo le merci, ma gli effetti sociali più in genere. È qua che opera, è a questo livello qua che operano i dispositivi di controllo e di sicurezza. Se non c'è un ambiente in cui, ma devono, ci devono essere meno cose vietate, per poter controllare, per poter avere più sicurezza, le cose devono comunque succedere. Se io le blocco prima, perché ho messo in atto un blocco disciplinare, non posso controllare nulla, no? O meglio, è diverso il modo in cui controllo un, come carcerato, dal modo in cui controllo un libero cittadino. Il carcerato lo controllo per il solo fatto che l'ho chiuso dentro uno spazio, una volta che l'ho chiuso lì sono più o meno a posto. Sta lì, non può più muoversi. Se cerca di scappare, gli ho la bastonata in testa, chiuso. Il cittadino, per poterlo controllare, quello che si può muovere liberamente, devo fare delle cose più complesse per controllarlo, e sono questi i veri meccanismi di controllo e di sicurezza, non quelli della prigione. Anche quelli controllano, ma quelli sono, quelli non sono più dentro. L'ambiente sarà esattamente ciò in cui avviene la circolazione. L'ambiente è un insieme di elementi naturali, come fiumi, paludi, colline. È un insieme di elementi artificiali, come agglomerazione di individui, abitazioni, eccetera. Consiste in un certo numero di effetti di massa che coinvolgono tutti coloro che vi risiedono. Esso rappresenta l'elemento al cui interno si realizza una sorta di cortocircuito tra gli effetti e le cause, perché ciò che è effetto da un lato diventerà causa dall'altro. Per esempio, più c'è addensamento di popolazione, più ci saranno miasmi, secondo le vecchie teorie, ovviamente, miasmi, le esalazioni pestifere delle acque putride, eccetera. Quindi più c'è addensamento, più ci saranno miasmi, e quindi più ci saranno malati. Ma più ci si ammala, più si muore, e più si muore. Quindi più ci saranno cadaveri, e quindi nuovi miasmi, e così via. Quindi vedete che c'è una catena di cause che diventano cause, che producono effetti, questi effetti a loro volta diventano cause di altre cose. Una catena causale. Questo avviene sempre dentro questo ambiente, ripeto, che può essere tanto un agglomerato di elementi naturali quanto un agglomerato di elementi. L'ambiente rende conto perciò del fenomeno di circolazione delle cause e degli effetti. Cos'è che circolano, secondo Foucault? Le cause e gli effetti, che sono quelli. Poi certo, si possono chiamare merci, popolazioni, persone, idee, ma sono sempre cose che causano eventi o elementi che causano altri eventi o altri. Quindi quello che circola in uno stato sociale sono sicuramente le cause e gli effetti. E si delinea infine l'ambiente come un campo di intervento in cui, anziché trattare gli individui come insieme di soggetti di diritto capaci di azioni volontarie, legge, come nel caso della sovranità, o come molteplicità di organismi, come corpi pronti a seguire le prestazioni richieste, come nel caso della disciplina, occorrerà trattare invece come una popolazione, cioè come un complesso di individui profondamente, essenzialmente, biologicamente legati alla materialità in cui esistono. L'ambiente designa quella zona di interferenza tra gli eventi prodotti da individui, popolazioni e gruppi e gli eventi quasi naturali che accadono intorno ad essi. L'ambiente designa quella zona di interferenza, è una zona in cui interferiscono. Che cosa interferiscono? Gli eventi prodotti da individui, popolazioni e gruppi interferiscono con gli eventi quasi naturali che a volte avvengono intorno a loro. L'evento malattia che si produce in certi settori di popolazione genera l'evento morte. L'evento morte, cioè l'apparizione di un cadavere, genera l'evento putrefazione che ha come effetto la produzione di miasmi, di preparazioni, che sono delle cause di nuovi effetti di altre malattie, di altre cose. Quindi c'è una interferenza tra gli elementi naturali e quelli artificiali dell'ambiente. il problema tecnico posto dalla città, come altri esempi sono ragionati, mostra l'irruzione del problema della naturalità della specie umana all'interno di un ambiente artificiale. Rileggo. Il problema tecnico posto dalla città mostra l'irruzione del problema della naturalità della specie umana all'interno di un ambiente artificiale. C'è un ambiente artificiale, cioè un insieme di uno spazio strutturato dagli esseri umani con edifici, funzioni, attensamenti e rarefazioni di individui, densità di abitanti, certo, no, questa è una città, no? Dentro questa città, dentro questo ambiente artificiale, la natura degli esseri umani, cioè la predisposizione a fare certe cose del corpo degli uomini, interferisce con gli elementi artificiali che ha creato l'essere umano. Questo irrompere della naturalità della specie nell'artificialità politica di un rapporto di potere mi sembra un fatto fondamentale. Ora voglio concludere con un pezzo di quello che è stato il primo canone teorico della teoria del rapporto di potere, che cita un certo Maupeou, che aveva già citato, credo, però anche nel corso del 76. Lui cita sempre persone sconosciute, perché ovviamente non se ne frega nulla di fare la filosofia con i grandi nomi della filosofia, va a prendere quei personaggi, se il quale aveva scritto un testo che si chiama Recherche sur la population, che adesso andiamo a vedere la nota e vediamo di capire di che anno è, perché qua non c'è scritto. Ora ve lo dico, vediamo di che anno è, così almeno. 1778, recherche e considerazioni sulla popolazione italiana. Ricerche e considerazioni sulla popolazione della Francia, 1778. Quindi siamo già un po' più in là, però insomma. Cosa dice questo Maupeou? Dipende, cita questo Maupeou, dipende dal governo se cambia la temperatura dell'aria e il clima migliora. Le acque stagnanti che defluiscono, le foreste piantate o bruciate, le montagne distrutte dal tempo o dalla cultura intensiva formano un suolo in cui nuovi. L'effetto del tempo, dell'abitazione della terra e della varietà dei fenomeni fisici e tale che anche i cantoni più sani sono diventati infetti. E poi si richiama un verso di Virgilio dove parla del vino che gira nelle botti e dice: quando mai riusciremo oggi a vedere in Italia il vino gelare nelle botti? Cioè dice, guarda che Virgilio 1700 anni fa diceva che in Italia il vino gelava nelle botti, dice oggi no, quindi vuol dire che c'è stato un cambiamento di clima in Italia da 1700 anni fa ad oggi, perché se Virgilio dice che il vino gelava nelle botti oggi sarà difficile, non era mai stato direttamente a Varese o sulle Dolomiti, perché il vino della Fuggenti gelava anche invece nel 1778, però gli serve per dire guardate che c'è un dinamismo storico anche di certi dati cosiddetti naturali, cioè cambiano con la cosa. Allora, se ci sono stati tanti cambiamenti, non è perché il clima è mutato, ma perché gli interventi politici ed economici del governo hanno modificato il punto delle cose, al punto che la stessa natura ha costruito per l'uomo, devo dire, un altro ambiente, un altro termine, lo scrittura nuovo. Che in conclusione afferma, sempre nuovo, se il principio sconosciuto che forma il carattere e gli spiriti dipende dal clima, dal regime alimentare, dagli usi, dall'abitudine a certe azioni, si può dire che i sovrani, attraverso leggi sagge, istituzioni utili, la soppressione delle imposte che mortificano le capacità umane e infine attraverso l'esempio che essi si danno, governano l'esistenza fisica e morale dei loro sudditi, governano, controllo, sicurezza. Forse un giorno si potrà trarre profitto da tali mezzi per modificare a piacimento il costume e lo spirito della nazione. Fine della citazione di Maupeou. Come potete vedere, ritroviamo qui il problema del sovrano, che però non è più colui che esercita il potere su un territorio, a partire da una localizzazione geografica della sua sovranità politica. Il sovrano ora è un'entità inseparabile dalla natura. Si situa al punto di interferenza, di implicazione perpetua tra un ambiente geografico climatico, fisico, eccetera, è la specie umana, dotata di un corpo, di un'anima, di una esistenza fisica e morale. Il governo è chiamato a esercitare il proprio potere nel punto di articolazione in cui la natura, intesa come elementi fisici, interferisce con la natura intesa come specie umana. L'ambiguità del termine natura, su cui spero di avervi messo in guardia a sufficienza quest'anno, forse vi ho rotto i coglioni troppo, ma vuol dire sono due cose differenti. La natura, nel senso dell'ambiente che, in cui noi siamo immersi, è una cosa, e la natura umana è una cosa totalmente diversa. Possiamo sempre chiamarla natura, ma la natura umana consiste in quell'insieme di potenzialità e di attitudini al come cambiamento e all'interferenza e alla rappresentazione, alla simbolizzazione, alla costruzione di doppi di questa cosiddetta natura, che poi influiscono anche sulla natura stessa. È proprio su tale snodo che il sovrano è chiamato a intervenire. Se vuole cambiare la specie umana, ammonisce Moreau, deve agire sull'ambiente. Vediamo apparire qui uno degli assi e degli elementi fondamentali della predisposizione dei meccanismi di sicurezza. Non si tratta ancora della nozione di ambiente, ma di un progetto, di una tecnica politica che si rivolgerebbe all'ambiente. E con questo finisce la lezione dell'11 gennaio. Allora, che considerazioni voglio trarre io da questa cosa? È proprio a tale snodo che il sovrano è chiamato a intervenire, abbiamo appena letto. Se vuole cambiare la specie umana, ammonisce Moreau, deve agire sull'ambiente. Che cosa stiamo vedendo? Proviamo a dire delle cose o cose simili o linguaggi diversi. Con il linguaggio che ho usato finora per parlarvi, come dire, delle altre cose. Come potremmo definire la biopolitica in un altro modo, non usando le stesse parole che ha usato Foucault? Non potremmo dire che mentre la sovranità, la legge e la disciplina danno per scontata l'esistenza della natura e non intendono cambiarla, non intendono interferire con i meccanismi più profondi di questa natura, ivi compresa la natura umana, danno per scontato che l'uomo sia cattivo, che l'uomo sia malvagio, che l'uomo voglia prendere il posto, che un qualunque scalzacane voglia prendere il posto del re, del sovrano, e quindi proteggeranno il sovrano, non si danno la pena di cambiare la testa bacata del potenziale contadino, diciamo, regicida. Non si danno, e quindi proteggono il re dall'assassinio. Non si danno la briga, non si mettono in testa di cambiare la natura dell'assassino, del maniaco sessuale o del bestemmiatore. Limitano a prenderlo, a rinchiuderlo in una galera e semmai a dargli un addestramento fisico per cui il suo comportamento esteriore si conformi a certe regole e a certi modelli, ma non intendono interferire nella natura, perché giudicano fondamentalmente la natura un dato, qualcosa di esterno, di immodificabile, a cui l'uomo deve in qualche maniera adeguarsi. Sovranità, legge, disciplina rappresentano semplicemente dei meccanismi di adeguamento, di adeguazione, di obbedienza dell'uomo a una dimensione naturale esterna data per immodificabile. Ok? Si può dire così? Lo pensate plausibile? Funziona o no? Se io mi limito a infliggere pene, proclamare leggi, vietare certe cose, è perché penso che le cose non cambieranno mai, perché penso che tanto le robe, quindi tanto vale, mi predispongo per... Il punto di vista della biopolitica è totalmente diverso. Quando io vaccino una popolazione, è perché sono convinto che il vaiolo lo posso sconfiggere, posso cambiare il vaiolo, posso cambiare la natura, posso determinare la scomparsa di qualche cosa che la natura mi ha portato. Ho elaborato delle tecniche che sono insieme mediche, sociali e politiche, tecniche, specialistiche. Ho elaborato un sapere, attenzione, questo sapere però, il fatto che io sappia che esiste una cosa chiamata vaccino per cui io posso vaccinare il vaiolo, non serve a nulla se io non ho dei meccanismi che inducono o costringono o convincono la popolazione a farsi vaccinare. Ecco che il sapere, allora, ecco quindi due cose. Primo, un atteggiamento biopolitico ha come presupposto, magari non detto, magari non esplicitato, ma ha come presupposto una ipotesi di modificabilità della natura. Si può dire sui dispositivi, sui meccanismi della natura. La natura non è più come nel pensiero pre-biopolitico, sovranista, giuridico, disciplinare. La natura non è più qualche cosa di dato una volta per tutte, di non più modificabile. La natura è qualcosa che può essere modificata dall'azione dell'uomo. Ecco il senso in cui l'ambiguità del termine diventa ricca. La natura umana è qualcosa che può modificare la natura. Poco importa a questo livello che si riconosca la natura umana come un segmento della natura in generale, in senso materialista, o che la si definisca in senso cartesiano come la spiritualità o la res cogitans o la capacità, poco importa. Sta di fatto che in qualche maniera sono tutti e due meccanismi naturali, anche nel dualismo cartesiano in qualche modo. Ma una di queste due nature può influire sull'altra e influendo sull'altra modifica il comportamento dell'uomo stesso in modo ben più profondo di come facevano i meccanismi, i dispositivi precedenti, accidenti, no? Cioè, perché dà luogo a comportamenti, e però per fare questo ci vuole, allora, primo, questo è il primo sviluppo, la prima conseguenza di una visione foucaultiana della biopolitica che può essere utile per noi, per me, per uno studio sugli esseri umani, sulle repliche degli esseri umani o sulla loro artificializzazione. Il secondo elemento fondamentale è che più ancora delle società precedenti i dispositivi biopolitici presuppongono una implicazione reciproca e un intreccio di sapere e di potere quale mai si era visto nelle società precedenti. Il sapere che non diventa potere è inefficace, è come se non si sapesse nulla. Non me ne frega nulla di sapere che è un certo microorganismo che genera la difterite o il morbillo, se non sono in grado di agire su quello. Non me ne frega nulla di avere trovato il meccanismo astratto attraverso il quale una certa azione, una certa sostanza opera su un'altra, se non ho il potere di fare in modo che la popolazione segua faccia questa cosa. È chiaro che, attenzione, il meccanismo, il dispositivo di sapere e potere è abbastanza elastico addirittura da poter, entro certi limiti, da poter tollerare delle eccezioni, delle diserzioni. Sta pure bene, è tollerabile che ci siano i testimoni di Geova che non vogliono fare le trasfusioni che non vogliono vaccinare i propri bambini, o anche che ci sia, è già più pericoloso, ma posso tollerare che ci sia anche una opposizione di elite culturali che non vogliono vaccinarsi, che hanno altre idee sulla medicina, eccetera, purché questo non mi influenzi i grandi numeri, purché il 90% della popolazione si vaccini comunque. Attenzione, c'è anche il rovescio della medaglia. Foucault scriveva nel 1966, nel 1980, stiamo assistendo recentemente, lo dico a edificazione nostra, a degli episodi di governamentalità biopolitica. Pensiamo all'ultima roba della aviaria prima, quindi a epidemie annunciate, strombazzate e che non si verificano, a clamorosi flop come gli ultimi acquisti non solo del governo italiano ma in tutta Europa. Il governo italiano, come sono praticamente Cialtroni, l'ha fatto peggio di altri, ma è successo un po' dappertutto che tutti hanno comprato all'inizio dell'inverno sto cazzo di vaccino pensando che arrivasse questa nuova forma di epidemia, questa suina più modificata, cos'era? L'avete vista? È arrivata? Ok, abbiamo buttato via letteralmente dalla finestra un tot di 10 miliardi di euro, eccetera, di tanto per... No, quindi vuol dire che anche questi meccanismi di biopolitica di potere hanno possono essere incantati, però è vero che funzionano su questi due grandi presupposti, no? Quindi primo, permeabilità, influenzabilità degli effetti naturali. Detto in altri termini, artificializzazione della vita. La vita può essere artificializzata se non c'è embrionalmente, potenzialmente, non c'è stato un cambio di qualità, un salto qualitativo dai primi vaccini di Pasteur alle biotecnologie. Certo, è stato un cambiamento quantitativo di grande importanza, ma l'idea che la natura fosse immutabile c'era da allora, poi non c'erano i mezzi e tutte le cose sono andate più lente del coso, ma insomma l'idea di fondo è una roba che durante le pesti del 300, del 400, ancora del 500, del 600, nessuno avrebbe pensato. E a fuori non era pensato, come caso faccio a sconfiggere la peste, a sconfiggere il vaiolo, cioè posso solo contenere gli effetti, mettere in un lazzaretto i malati e fare tutte le robe sociali per fare in modo che questa non si... Ma il meccanismo in quanto tale della epidemia è immodificabile, l'endemia è modificabile, io agisco sulle cause di fondo dell'endemia per fare. Quindi primo, e questo per noi è di importanza, come dire, fondamentale. Non c'è una vera possibilità né di replica degli esseri umani né della costruzione di esseri umani artificiali reali, non quelli del mito, cioè cose che posso pensare di fare, né la possibilità di tecnologizzare il corpo, quindi di creare cyborg tendenzialmente, se non ho questo atteggiamento di fondo. Quindi, come dire, allora, l'uso del termine omeostasi in questo passo di Foucault e l'insistenza della coppia naturale-artificiale, artificializzazione, l'irruzione della naturalità della specie umana all'interno di un ambiente artificiale, indicano che come dire, il tema della artificializzazione del corpo è un tema implicitamente foucaultiano in qualche modo. Qui in Bisogna difendere la società c'è solo un punto in cui Foucault parla del romanzo gotico, però come elemento fantascientifico e fantapolitico. Dice che il gotico, l'ambigua valorizzazione del gotico che si vede emergere nei famosi romanzi medievali dell'epoca della rivoluzione, che i romanzi gotici, che sono sicuramente romanzi del terrore, della paura e del mistero, ma sono anche in ugual misura anche romanzi politici. Infatti sono sempre racconti degli abusi del potere e delle esazioni, vi racconta la favola di sovrani ingiusti, di signori spietati e sanguinari, di preti arroganti e così via. Il romanzo gotico è un romanzo di fantascienza e di fantapolitica. È un romanzo di fantapolitica nella misura in cui è essenzialmente incentrato sull'abuso di potere, ma non spiega perché secondo lui è di fantascienza, sì, perché c'è una scienza fantastica, certo, ma non in genere parla poco di queste, di queste cose. Però diciamo, come dire, io credo che la conclusione è che credo che sia possibile quindi utilizzare delle categorie foucaultiane nello studio dei personaggi, insomma, degli uomini artificiali come elementi dell'immaginario e come elementi della quotidianità o della contemporaneità tecnoscientifica, in primo luogo perché le condizioni di apparizione di queste figure sono esattamente le stesse condizioni o molto simili a quelle che implicitamente Foucault enumera per la nascita della biopolitica. Quindi possiamo in qualche maniera interpretare l'androide e il robot come delle prime, delle nascenti figure di biopolitica, come dei potenziali personaggi biopolitici da questo punto di vista. Ma c'è un secondo elemento, per questo che ho esplicitato quei due elementi prima, perché entrambi mi sembrano pertinenti. Il discorso del robot, dell'androide e del cyborg in realtà sono elementi biopolitici anche, non solo per questa ragione che ho detto prima, ma anche per la ragione che sono essenzialmente figure di interferenza tra il sapere e il potere. A partire dagli automi di Hoffman e a partire da Frankenstein. Per non parlare del Ruhr di Chape e poi di tutte le altre, di tutte le opere successive e fino ai romanzi di Dick e di Gibson. Gli uomini artificiali replicati o invasi sono l'effetto di un dispositivo di sapere, sono l'effetto di una certa, di un certo insieme di conoscenze tecnoscientifiche che sono, che sono diventati tali o perché erano all'interno di certi meccanismi di potere o perché qualcuno aveva autorizzato la replica di quei corpi o la trasformazione di un corpo umano in un corpo di sapere, o c'era una autorizzazione o facevano già parte di una zona protetta della società, di un circuito di potere, oppure hanno infranto, sono dei fuorilegge e quindi hanno infranto un quadro normativo di potere precedente per appropriarsi di qualche cosa che non sarebbe loro spettato ma che loro hanno qualche modo di avere, e quindi in questo modo hanno interferito con gli usuali meccanismi di potere, anche loro hanno, sia pure, quindi o in maniera ufficiale, legittima, autorizzata, o in maniera ufficiosa, non ufficiale, illegittima, illegale, hanno fruito di questo intreccio tra il sapere e il potere. Cioè si sono situati a un certo livello di potere utilizzando un certo livello di, come dire, sapere e determinando a questo punto nuove configurazioni dei livelli di potere all'interno della società. Se volete potete leggere ogni romanzo di Gibson e di Dick e anche di Asimov volendo sugli automi e sui cyborg in questo modo. sia che il cyborg venga già dato come cyborg o come robot quando è in crescita, sia che assistiamo alla sua creazione, avremo l'effetto di un dispositivo biopolitico in qualche modo, e avremo la trasformazione di questo dispositivo biopolitico e avremo la predisposizione potenziale, se non effettiva, di certi effetti della comparsa di questa novità sugli stessi dispositivi biopolitici. Quindi per entrambe queste ragioni direi che si potrebbe e dovrebbe fare, volendo, uno studio biopolitico dell'uomo artificiale, inteso, ripeto, sia come effetto o figura privilegiata di un processo di artificializzazione della natura di cui la biopolitica è una delle componenti, è uno degli elementi. E secondariamente, secondariamente come secondo, non perché sia meno importante, insomma, sia per questa ragione che per l'altra, e secondariamente perché all'interno di queste figure si esprime un'articolazione degli effetti di potere dei dispositivi conoscitivi, quindi del sapere di una certa società, e reciprocamente degli effetti, degli aumenti di sapere che certe pratiche di potere portano con sé. Voi marcate il caso, ma tutti noi potremmo anche bellamente sostenere che ogni personaggio di un romanzo di fantascienza, anche se è un essere umano, è in qualche modo o un robot o un cyborg. Potremmo sostenere che la figura dell'uomo artificiale in realtà è una figura paradigmatica, che dal momento in cui Olimpia o Frankenstein sono entrati sulla scena, diciamo, dell'immaginario, hanno robotizzato o cyborgizzato tendenzialmente anche tutti gli altri personaggi umani, di tutti gli altri nel momento in cui c'è la possibilità, potenzialmente è possibile creare un essere umano artificiale anche soltanto la fantasia, nel momento in cui è possibile alterare il genoma di un altro essere umano, noi diventiamo tutti cyborg genetici, anche se nessuno ha alterato il nostro, come l'apparizione della scrittura ha reso tutti letterati, anche negli alfabeti. Da quando è apparsa la scrittura non è stato importante quante persone scrivesse, anche quando era una minoranza delle persone capaci di leggere e scrivere, ciò nonostante quel dispositivo sociale è diventato un dispositivo centrale, ha creato condizioni nuove all'interno di tutta la società, sia per chi lo era sia per chi non lo era. Potremmo dire da un certo punto di vista che l'uomo artificiale, quindi che non importa che non ci sono più uomini naturali, esseri umani naturali, una volta che è comparso l'artificio all'orizzonte della specie umana, che quindi in qualche modo l'affermazione di Foucault andrebbe corretta o andrebbe paradossalmente letta come una negazione di se stessa. Non è più l'irruzione della naturalità della specie umana all'interno di un ambiente artificiale, la formula che usa all'inizio di Sécurité territoire population, potrebbe essere completata o corretta in questo modo: l'irruzione della naturalità della specie umana all'interno di un ambiente artificiale determina l'artificialità della stessa natura umana, la trasformazione artificiale della stessa natura umana. Nel momento in cui la natura umana irrompe e si dimostra e si dichiara e si dimostra capace della creazione e della interazione tra se stessa e un ambiente naturale, automaticamente ha dimostrato che non è più natura nel senso classico, che non è più natura nel senso di un dato immodificabile. è una natura, possiamo pure continuare a chiamare natura, ma dobbiamo definirla come una natura manipolabile e modificabile, come è diventato modificabile il nostro, diciamo, DNA oggi. E possiamo pure continuare a chiamarlo natura, ma è una natura che è diversa dalla natura quale è stata fino alla soglia della sua non modificabilità. Il mio sviluppo è stato probabilmente quello di retrodatare un po' questa soglia e di farci capire che i prodromi e le precondizioni per l'esplosione tecnologica del XX secolo erano stati già posti nel corso del XVIII e all'inizio del XIX secolo con la nascita della biopolitica, cioè con l'apparizione di un insieme di tecniche di governo della popolazione o della governamentalità, come dice lì, insomma, di tecniche di governo che non davano più per immodificabile il dato naturale, che già configuravano opzioni e possibilità di intervento sul dato naturale, cioè sul comportamento biologico, sulla biologia delle popolazioni. Ovviamente i cambiamenti sono molti, nessuno dice che non siano molti, certamente è un salto di qualità l'intervento diretto sulla modificabilità diretta del, diciamo, DNA rispetto al vaccinare un bambino contro il vaiolo, ma il principio è simile in entrambi i casi. In entrambi i casi si tratta della possibilità, che non era mai verificata prima, di governo della biologia, di governare i processi biologici. Ciò che appariva o era in linea di definizione ingovernabile, a un certo punto diventa governabile. Questo vuol dire la biopolitica. Vuol dire è stato reso governabile ed ingovernabile. Ciò che non è più simile in fondo, no? Questo concetto in realtà è la anche l'uomo scoperto dalla natura non è più una cosa definita e stabile, se vuole può essere modificato dall'uomo. Anche perché ha fatto comunque un esempio. Capito? Ma come dialogava, Foucault ci dice che questo, che tu che con questo aveva degli antenati, cioè comunque è stato del possibile che è nata la più politica e più. Allora, l'idea di Foucault, l'importante di Foucault non sta in questo. Foucault ci ha mostrato che l'esplosione tecnologica del XX secolo e anche le innovazioni concettuali che tu dici, per esempio la democrazia, eccetera, in realtà hanno un antecedente, cioè vanno retrodatate. Non ci sarebbe stata la bomba atomica se non ci fosse stata che il vero cambiamento, insomma, avviene tra fine XVIII, inizio del XIX secolo, con l'affermarsi di una prospettiva biopolitica, il governo del biologico, governare il biologico. L'idea di governare il biologico, inconcepibile e quindi non presente nelle culture precedenti fino a più o meno il XVII o XVIII secolo, comincia a farsi strada a modernità matura, mentre la modernità matura, mentre l'era moderna matura, e si configura esattamente più o meno con la storia e con le caratteristiche che si spiega, insomma, tutto. Ecco perché in qualche modo mi pare, quindi, e concludo oggi, che sia plausibile studiare i processi di artificializzazione del corpo da un punto di vista sociale, che non vuol dire come l'abbiamo già fatto, abbiamo soltanto vagamente dichiarato che la cosa è possibile, ma se qualcuno fa, allora la prossima volta, se volete, discutiamo con la stessa cosa, e se no facciamo, io mi proporrei di di provare a fare, se ce la facciamo, non sarà una cosa un po' razionale, ma insomma una lettura biopolitica di un racconto di Dickens. Potremmo anche umanamente sempre fare la fine. Quello che vuoi. Adesso io faccio un racconto perché tipo prima. Di un singolo che agisce su un ambiente, no? E il fatto che, per esempio, Mona Lisa sia quella che subisce poi direttamente a livello proprio biologico la tecnologia che c'è all'esterno, cioè lei non è immersa in un ambiente tecnologico, è al di fuori, però diventa l'oggetto principale. Mi sembra plausibile, hai ragione. Ci vediamo.